Ella parte, mirate, la menzogna è con lei. Corri, dimostri nelle diverse sue facce deformi. Molti sembrano, è vero, indimioni, ma basilische son, servi e dragoni. Li seguirò, l'attenderò, distruggerò il bagno intero. Voi dicendo di no, resta qui al cine, alla tua ore appresso, e indoverai la nuova adesso, adesso. Quanto mi fa pietà che il minaccioso Caronte, egli è guerriero, feroce, invulnerabile e fatale, sinché sostiene la ferrea mazza in pugno, e di ferrea catena alla destra la nona, or venga l'empio leggero e provi di sua spada il taglio, quella catena.